amici miei, quando d'inverno venivano in città, un dolce incanto univa a lui e a lei, un sentimento d'amore e di bontà. A che coppia di sposi, a che coppia di sposi? Lui cantava un gaio motivetto, l'accompagnava lei con l'organetto, e qualcuno sentendo quel duetto metteva 4-5 soldi nel piattino. Non avevano il becco d'un quattrino, bastava solo a lor volersi bene, e cantando la solita canzone a tutti quanti regalavano la bontà. Gira, gira la manovella, questa vita poi finirà, ma una vita più dolce e bella dopo questa comincerà. Oh, che coppia di sposini, avevano il candor di due bambini. Poverelli, ma vispi un po' burloni, a tutti quanti regalavano la bontà. Qualcuno sentendo quel duetto metteva 4-5 soldi nel piattino. Gira, gira la manovella, questa vita poi finirà, ma la vita più dolce e bella dopo questa comincerà. Oh, che coppia di sposini, avevano il candor di due bambini. Poverelli, ma vispi un po' burloni, a tutti quanti regalavano la bontà.